chami Genesio, eu fa un po' de tut. Poeta e spazzing, astronauta e magut. O pirla per il mondo, fino all'ultimo chilometro. Innanzi andrei come il mercurio nel termometro. Sunna in se la luna, tu ma con ti ecce. O spara contra il tempo, o desfai un reloge. O pregami la volta, senza naggio in genoc. O gira con te smoking, e a pepiut piede piace. Ma tu che impara, e che la ruda la gira, che ogni tanto se stravaca, e il bicer della birra. Tra fortuna e scarogna, che è una corda che tira, quanche il diavolo il pica, e il ciapa la mira. Sono stali in cudin e qua volta al martel. Ho da torretta al cuore e qua volta all'usel. Nel bacio della chitarra ho scondu questa vita, sia i pagini in russo che qui scrivo a matita. E il curtello in una man e nell'oltre un maz de fiù, perché l'amore è la morte. Io sempre le scondo ogni dena vivia con un basen o una pesciata, col destin de tre di spal per mulanna bastonata. Ed è ogni mia donna se ricordi il sorris, anche se con nessuna son rua ai benis. Tanti don che in sacoccia che renciano il paradis, insieme al russet e alla sai cicatriz. Scappavi e inseguivi senza mai ciapafia, curiando nel vento, fiù senza un pra, una trotula amata, sempre in giro senza sosta, un boomerang chuk, senza mai una risposta, singer e sure, sempre sul me binari, sutta un'alba e un tramont, più se rus del Campari. Ma i ricordi en smac, e me special duman, e il me specia incazza con shai bombaman. Sigarette senza nom e bucer senza storia, an fai ghirigori nella mia strana memoria. Tatuage invisibil che me cagnen de noc, e una vita tirada come un nastro de scotch. La mia cicciarada lascia il tempo che la trova, guardi il ciel de novembre con la sua luna nuova. Sunt il Genesio e questo le tut, con qualsiasi vesti suta son biut, con qualsiasi vesti suta son biut.